La versione di Oscar Giannino. Cari ascoltatori, eccoci qua in diretta alle 16.31, primi e 32 secondi, qui a Radio 24, Studio di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, la versione di Oscar in diretta o in registrata con... scaricandolo ovviamente sul nostro sito. Allora vi dico subito qual è l'argomento di oggi. È un nostro ascoltatore, quindi ricordo anche l'indirizzo versione di Oscar @24.it, perché lo sapete, molte trasmissioni nascono dalle vostre richieste, segnalazioni, spunti, autocandidature per parlare, come accade oggi, di una vicenda che è una vicenda che riguarda la persona che ce la segnala o persone che conosci direttamente, ma che in realtà ha una valenza generale, che quindi serve come spunto per farci riflettere e anche per darci, raccogliere le vostre opinioni all'800240024 e per gli sms 349-238-6666. Di che cosa parliamo oggi? Dell'intreccio di due fattori. Il primo è una cosa molto ricorrente per questa trasmissione per me, cioè il fisco, visto che la storia ha a che fare con una richiesta di rateazione dell'ottemperanza di un obbligo fiscale, in particolare una cartella erariale. Ma la seconda, che si aggiunge alla prima, e che rispetto alla prima quindi aggiunge il punto vero su cui vi chiedo una vostra opinione e la vostra esperienza, è quella del fatto che chi ha famiglie, ohimè non troppo numerose nel nostro paese, con carichi familiari significativi, in questo caso cozza contro il fatto che il nostro ordinamento non riconosce questo fattore come un fattore fondamentale per graduare la capacità di pagamento allo Stato, ecco, né tantomeno per graduare la facoltà di accesso ai servizi offerti dallo Stato. Voi mi direte: no, ma come, caro Giannino, è stato modificato apposta l'ISEE, cioè il reddito equivalente, che è diventato il criterio attraverso cui si misurano in termini comparati bilanciati, no? I redditi equivalenti dei soggetti di fronte allo Stato. Ebbene, no. Ecco, questa è una storia che unisce l'aspetto fiscale con l'aspetto dell'ISEE, del carico familiare, dimostrando una doppia, ai miei occhi, ingiustizia. Però io sono curioso di sapere che cosa suscita in voi e soprattutto se avete carichi familiari significativi, come la pensate nella vostra esperienza, di che cosa davvero vi abbia garantito in più l'ISEE, oppure se avete toccato con mano che l'ISEE rivisto in realtà non funziona come criterio che davvero sia in grado di tarare, cioè di fare la giusta tara della vostra capacità di pagamento allo Stato, se dovete qualcosa allo Stato, e dall'altra dell'offerta da parte dello Stato a servizi a voi, quindi in termini simmetrici, ma non tenga affatto il dovuto conto dei carichi familiari rispetto ai quali voi avete ovviamente il primo obbligo per diritto naturale, cioè di garantire a coloro che compongono il vostro nucleo familiare il massimo possibile rispetto al reddito che riuscite a produrre, realizzare, a portare a casa, qualunque sia la vostra attività, reddito dipendente, siate disoccupati, siate lavoratori autonomi ma in difficoltà con i pagamenti o perché il mercato su cui insisteva la vostra attività si è ristretto e non si è ripreso a questi primi tossicchianti segni di crisi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questi sono i due punti per cui vi invito a telefonare 800240024 e a questo punto vi introduco l'ospite che ci ha scritto. C'è, perché dalla regia non riesco a vederlo in questo momento. C'è, ah ecco, perché il quadro che ho io non indica la telefonata che è pronta. Invece è pronta la telefonata, Riccardo Tribaudino, che io ringrazio per averci scritto e segnalato il suo caso. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, racconta per favore ai nostri ascoltatori la storia che ci ha scritto. Ma la situazione è abbastanza semplice, nel senso che nel 2013, 2003, mia moglie aveva un'azienda, un'attività propria aperta dal 2001 al 2004. Nel 2003 ha ricevuto un, diciamo, a fronte di una di un'IVA, del dichiarazione IVA del 2001, ha ricevuto un rimborso. Poi l'Agenzia delle Entrate ha fatto un controllo nel 2006 e hanno rifatto di nuovo lo stesso rimborso, erroneamente. Sì. A questo punto nel 2007 Equitalia ci ha mandato la richiesta di rimborso del secondo rimborso che era un errore. Era un errore. Poi noi eravamo in fase di trasloco, quindi abbastanza è passata via, colpa nostra, passata via, nostra responsabilità. 9 anni dopo, quindi qualche giorno fa, è arrivata la richiesta di nuovo di pagamento. Quindi voi non avete proceduto al rimborso, esatto, di questo doppio rimborso, di cui il doppio era sbagliato. Non lo avete proceduto e non quindi si è arrivata alla fase esecutiva in cui lo Stato vi ha ingiunto a quel punto di far fronte, di ottemperare al vostro debito fiscale nei confronti dell'amministrazione tributaria. Esattamente, quindi va bene, consci del fatto che l'errore è stato nostro, ci rechiamo presso gli uffici di Equitalia, tra l'altro le persone che abbiamo incontrato erano gentilissime e disponibilissime, e nella richiesta della cartella c'era scritto come opzione per il pagamento di poter avere la dilazione fino a 120 rate mensili, il che erano 10 anni, va bene. Così mi reco agli uffici e mi viene chiesto se volevo fare 72 rate. Ho detto, ma guardi, veramente nella lettera c'è scritto 120, io opterei per 120. E mi ha detto, va bene, per aprire 120 rate bisogna aprire una procedura, mi serve il suo ISEE. Mm-mm. Io molto contento, ho detto, va bene, una bella idea, insomma, il fatto di dividere e soprattutto dare importanza al carico familiare. Così avevo l'ISEE con me, guarda caso, sul telefonino, perché l'avevo appena fatto, e comunico l'ISEE. Ma mi viene detto, no, attenzione, non mi serve l'ISEE, che poi è il calcolo che viene fatto a seconda dei figli e della moglie che si hanno a carico, ma mi serve il valore di ISR, ossia l'indicatore della situazione reddituale. Quindi non mi è stato chiesto l'ISEE, mi è stato chiesto l'ISR, che è qualcosa che non tiene conto dei carichi familiari. Esattamente. E mi è stato detto no, non si può fare, assolutamente, mi dispiace, ma l'ISEE non viene tenuto in considerazione, viene tenuto in conto l'ISR, quindi lei deve fare anziché 120 rate, cioè 72 rate, che è il massimo che possiamo dare. Perché lei non era ammesso per via dell'ISR al massimo della rateazione che in questi anni di crisi è stato introdotto per favorire i contribuenti che hanno avuto cali di reddito, che comunque hanno. Ecco, abbiamo fatto anche una simulazione con l'impiegato che era lì, che era disponibilissimo, e ha messo un ISR addirittura di 16.000 euro. E ha detto neanche con 16.000 euro passa, parliamo di 16.000 euro come ISR, non passava neanche in quella condizione, quindi bisognava avere un ISR molto più basso, e siamo passati quindi a 72 rate, basta. Quanti figli ha lei? 6, il più grande ha 17 anni, la più piccola 6. Però lei in precedenza non si era mai reso conto del fatto che in realtà lo Stato non ha assunto l'ISEE come criterio attraverso cui parametrare la capacità di ottemperanza del proprio dovere fiscale? No, perché in realtà l'ISEE viene utilizzato per altre cose, per esempio in Lombardia qui c'è la dote scuola, sì, è un parametro l'ISEE. Oppure l'iscrizione all'università, la seconda rata, l'ISEE è un parametro che viene valutato, ma per Equitalia no. L'ISEE non va bene, si usa l'ISR. Questo mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, insomma, perché caspita, tutte le cose che vengono utilizzate si basa sull'ISEE, ma in realtà quando c'è un debito verso il fisco non vale più l'ISEE, ma vale l'ISR. E il povero non nel senso, non mi permetto di giudicare, ma insomma, visto che lei ha detto che gli addetti degli uffici tributari verso cui si era recato erano gentilissimi, lei ha provato a chiedere a loro o a un dirigente, ma è in grado di spiegarmi perché questo criterio non vale quando lo Stato ci chiede di pagare nei suoi confronti? Ho chiesto, mi ha detto, guardi, mi dispiace, sono a terminale e il codice che mi chiedono è il valore di ISR. L'ISR viene calcolato quando si danno tutti i documenti, io l'ho fatto tramite il commercialista, il calcolo dell'ISEE, quando per derivare l'ISEE si calcola prima l'ISR, poi l'ISR viene diviso a seconda di un coefficiente familiare e viene prodotto l'ISEE. Quindi no, mi hai detto solo l'ISR è previsto come parametro per la rateizzazione del debito fiscale. Allora, cari ascoltatori, avete capito di che si tratta, no? Cioè di una rilevante, a mio giudizio molto rilevante, nuova simmetria che sottoponiamo al vostro giudizio. Nuova simmetria perché significa naturalmente che lo Stato, se si tratta di offrire servizi, va bene. Abbiamo rivisto l'ISEE, ma se si tratta invece di farsi pagare, se ne impipa allegramente di incrociare il reddito disponibile del capofamiglia per il numero di coloro che compongono il nucleo familiare a carico di chi ha quel reddito. Secondo voi è giusto? È costituzionale? E io non voglio scomodare la Costituzione, perché come sapete viviamo in un paese in cui la giurisprudenza costituzionale per quanto riguarda i rapporti tributari contribuente-Stato è unilaterale, pressoché unilaterale. Cioè noi abbiamo accumulato nei decenni tonnellate di giurisprudenza di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale che è pressoché unilateralmente favorevole alle pretese asimmetriche dello Stato per ragioni di cassa. E naturalmente però questo descrive il paese in cui siamo. Due settimane fa, se vi ricordate, un altro ascoltatore ci ha consentito di toccare con mano come di fronte a un credito fiscale regolarmente dichiarato e non contestato dall'Agenzia delle Entrate, le sezioni riunite della Suprema Corte di Cassazione abbiano appena deciso che lo Stato, pur non avendolo contestato e non pagandolo, perché quello era il caso di cui si trattava, per cui il contribuente aveva fatto ricorso fino in Cassazione, e la Suprema, con le sezioni riunite della Suprema Corte di Cassazione, hanno deciso che lo Stato, di fronte a un credito regolarmente maturato e dichiarato e non contestato dall'amministrazione tributaria, pur scaduti persino i termini massimi dell'accertamento possibile rispetto all'anno fiscale in cui era stato dichiarato, cioè pur 6 anni dopo, lo Stato può continuare liberamente e allegramente, senza dire nulla, a non pagarlo al contribuente. Allora, lì c'era una asimmetria purtroppo riconosciuta per giurisprudenza a favore dello Stato sul fatto che non solo non ti rispondo né ti contesto, ma ti appendi e non ti pago. Qui siamo invece in presenza, a mio modestissimo giudizio, di un caso di gravità sociale, di giustizia sociale, ancora più grave, perché in questo caso, vedete, non si disconosce, come nell'altro che vi ho citato, il pieno diritto naturale per me. Il diritto naturale viene prima del diritto positivo dell'ordinamento. Il diritto naturale è quello di un contribuente che in regola nei suoi rapporti fiscali deve avere per diritto della propria persona incardinata il pieno rispetto da parte dell'ordinamento a essere trattato in maniera paritaria nello stesso modo, e quella sentenza della sezione riunita della Corte di Cassazione lo nega. Ma in questo caso al venire negato non è il diritto naturale, anche in questo caso, del nostro ascoltatore Riccardo Tribaudino a vedersi riconosciuto il massimo della rateazione che abbiamo introdotto in ordinamento proprio per venire incontro a chi aveva difficoltà in questi anni di crisi, prima non c'era, ma non se lo vede disconosciuto per sé, come nel caso dell'altro contribuente, se lo vede disconosciuto per tutti i componenti del proprio nucleo familiare. Cioè è un classico caso di indifferenza del nostro ordinamento alla famiglia. Poi si può, il paese, mi fa ridere che il paese si spacca in 44 nelle polemiche pubbliche per decidere se la famiglia è naturale, solo quella eterosessuale a fini procreativi, se bisogna estendere alcuni diritti come si è fatto recentemente in Parlamento per le unioni civili tra omosessuali, distinguendole a propria volta invece dalle convivenze tra eterosessuali, eccetera eccetera eccetera. Ma su queste cose fondamentali che vengono prima, capite, della stessa definizione di che cosa sia una famiglia nel nostro ordinamento, su questo invece il dibattito è pari a zero. Zero. Allora, queste sono le cose che a me colpiscono, perché mi fanno molto riflettere, se permettete, visto che siamo in giorni nei quali ci sono i giornali pieni dei Panama Papers e i paradisi fiscali, tutti devono pagare le proprie tasse. Benissimo. Allora, adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale, ma io, cari ascoltatori, oltre allo sdegno per chi evade all'estero, eccetera, eccetera, cioè, l'avete visto la lista dei 100 che l'Espresso oggi ha pubblicato e così via, faccio una domanda. Secondo voi, i 60.000 italiani, sono più di 60.000, 64.000 secondo i dati più aggiornati, che negli ultimi 3 anni, 64.000, si sono trasferiti alle Canarie? E stiamo parlando di anziani pensionati, non stiamo parlando di manager pubblici corrotti, di politici che imboscano tangenti, di imprenditori che fanno i virtuosi in Italia e mandano i soldi all'estero. No, stiamo parlando di pensionati, anziani italiani soprattutto. Bene, 64.000 di loro si sono trasferiti alle Canarie. E sapete perché si sono trasferiti alle Canarie? In particolare a Tenerife, che è la parte migliore, più carina, più bella. Perché in quel caso si offrono agli espatriati, cioè a chi si trasferisce lì, apporta lì la propria capacità di spesa, si offre un'aliquota IRPEF pari al 15%. IVA per diversi anni 0%, i mutasi, qualunque tributo immobiliare se comprate casa lì, pare a 0%. Ecco, 64.000 pensionati italiani sono stati, tra virgolette, costretti a fare quella scelta. Riflettiamo su un fisco così, prima di indignarci solo del fatto che ci sono solo coloro che espatriano, perché, per essere chiari, non è vero che, non riconoscendo le 120 rate al nostro ascoltatore, qualcun altro ne ha beneficiato, perché non funziona così. Lo Stato decide lui cosa fare dei vostri soldi, ma vi disconosce il diritto, in questo caso a un nucleo familiare, di essere considerato come un criterio per la massima rateazione che pure abbiamo ottenuto a fatica con anni di trasmissione. Ve ne ricordate, Disperati Mai? Ecco, anche per effetto di quelle trasmissioni, della vostra voce che denunciava che cosa stava avvenendo tra disoccupati, eccetera, eccetera, siamo riusciti a ottenere che l'ordinamento facesse un passo avanti. E non deve contare per la famiglia? E per chi deve contare allora la rateazione fiscale? Ecco, perdonate questo pistolotto, ma è per farvi capire meglio di che cosa stiamo parlando e perché a me faccia molto girare le scatole tutte le volte che lo sapevo, perché io questa cosa non la sapevo e l'ho appresa grazie a Riccardo, che è con noi. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Allora, io dico subito che nei nostri sms, caro Riccardo, poi ti chiederò di rispondere, ce ne sono parecchi che dicono no, un momento, caro Giannino, qui non stiamo parlando di un contribuente vessato, qui stiamo parlando di uno che ha avuto un doppio rimborso, quindi ha avuto un vantaggio, non lo ha restituito lì per lì e dopo anni ancora accampa scuse. Allora, qui c'è un'accusa. Se nel frattempo però il suo reddito è andato in difficoltà, eccetera, eccetera, non ci dovrebbe essere un criterio uguale per tutto. Mica disconosce il fatto che deve ottemperare il proprio dovere, qui non stiamo parlando di quello. Però capisco, a molti di voi è suonato così, quindi chiederemo tra poco a Riccardo di rispondervi. Sentiamo qualche telefonata prima, così poi sentiamo i suoi commenti alla fine a tutti. Allora, cominciamo con Carmine da Torino. Carmine, prego. Buonasera Giannino, innanzitutto. Buonasera. La ringrazio per avermi fatto partecipare. Senta, io guardi, ho avuto una vicenda abbastanza particolare l'anno scorso per l'ISA, che per sì. fortuna si è conclusa bene. Mia moglie si è iscritta all'università, mia moglie ha poco più di 30 anni, a un certo punto ha presentato l'ISA, ma le è stato contestato il fatto che lei, nonostante noi siamo sposati, abbiamo due figli, abitiamo nello stesso appartamento, lei da sola non aveva un reddito tale per potersi... per far sì che questo ISE fosse reso valido, e quindi doveva presentare l'ISE di suo papà, di sua mamma. Questa cosa è stata abbastanza folle l'anno scorso. Poi a un certo punto abbiamo come fatto di suo papà e di sua mamma? Sì, perché sì, lei sì. da sola l'anno scorso, negli ultimi 2 anni, non aveva un reddito medio di 6.500 euro annui, praticamente, che era effettivamente così, perché lavoro io, sono lavoratore autonomo e con, diciamo, i miei soldi riusciamo a sopravvivere e quindi... paghiamo l'università eventualmente con i certo, soldi, il resto fa parte della stessa famiglia. Certo, certamente. E lo Stato contestava il fatto che mia moglie da sola non era in grado di avere un reddito tale per pagarsi l'università e quindi doveva presentare anche il reddito dei suoi genitori. Poi abbiamo fatto richiesta all'università, abbiamo fatto, diciamo, una sorta di lettera alla commissione interna, è stato accettato il nostro ISE ed è andata bene così. Poi a fine anno probabilmente hanno ricambiato di nuovo le regole in merito. Perché questa cosa era abbastanza folle, perché praticamente molte persone si trovavano in questa condizione. Ma chiusa questa, diciamo, parentesi, io chiamavo per, in realtà, per un altro motivo, sì. per un discorso di principio. Sì. Lo Stato ci dice: fate l'ISE affinché possiate in qualche modo, che ne so, per l'immondizia, per l'università, per la scuola, per tutta una serie di servizi pubblici, avere delle agevolazioni fiscali. E l'INPS cosa ci dice? Ti dice: venite a fare l'ISE e ci presentate, ci dite qual è il vostro reddito. E ci dice: noi lo sappiamo già il vostro reddito, quali sono i vostri conto correnti? E ci dice: ah, noi possiamo accedere ai vostri conti correnti. Allora mi chiedo, ma non farebbe prima l'INPS a dire direttamente al cittadino qual è il suo ISE e quali sarebbero i suoi, diciamo, vantaggi? E Carmine, ti devo rispondere naturalmente che, come sai, questa promessa che avrà anni per la piena realizzazione, per il momento è cominciata solo con il 730 precompilato e al secondo anno c'è ancora la questione aperta delle spese farmaceutiche, delle spese sanitarie farmaceutiche. Ecco, abbiamo fatto diverse puntate su questo, quindi prima di arrivare a quel livello di utilizzo di banche dati che lo Stato ha in pieno possesso, quelle utilizzate per fare gli accertamenti, ma per offrirti un servizio, quanti anni, scommetto con tutti voi in ascolto, prima di tramutare il pieno possesso che viene utilizzato a fine di indagini e accertamenti in un servizio offerto ai cittadini, passeranno tanti rigogli anni che io non ci sarò più, probabilmente. Naturalmente spero di perdere, ecco, di avere una vita abbastanza lunga, ma soprattutto di vedere uno Stato efficiente, però diciamo che ci credo abbastanza poco. Carlo da Roma, Carlo. Giannino, buonasera. Buonasera. Allora, intanto premesso che la persona, che l'ascoltatore da cui è scaturito il tema della trasmissione, si è recato presso Equitalia per pagare, non è un esatto, non è, una persona che si è messa in fuga, esatto. Che ha semplicemente una reiterazione, vista anche la numerosa prole, quindi esatto. Penso che insomma ne ho tre di figli e so quanto costano. Allora, io volevo invece fare un semplice parallelo tra il nostro sistema riguardo al sostegno alla famiglia, quindi sì. L'ISE è lo strumento che ci aiuta, e il sistema francese, dove viene invece applicato il quoziente familiare. Bravo. Paese estremamente laico. Bravo. A differenza del nostro. Bravissimo. Che è ortodossamente cattolico e però c'ha il fisco famiglia. Più ostile alla famiglia di tutto allora, l'Occidente. Le faccio questo esempio. Io ho un amico, un ufficiale di Marina, che è stato per 8 anni a Bruxelles, ha lavorato presso l'Unione Europea. Sono andato a trovarlo con mia moglie, lui ha 2 figli, moglie non lavora, ha 2 figli, e a cena eravamo a casa loro, ho conosciuto un suo collega francese, tra l'altro con un grado superiore al suo, con moglie e 2 figli, quindi una moglie che non lavorava, 2 figli minorenni, quindi una situazione del tutto simile. Allora, a fronte di un reddito più alto, il suo collega francese percepiva tra sgravi fiscali e contributi effettivi, cioè soldi che gli arrivavano tutti i mesi in più, l'equivalente dei nostri assegni familiari, 1.300 euro. Tutti i mesi, oltre allo stipendio ben più sostanzioso che prendeva lui come militare, ma è così, e devo dire la verità, ci sono ordinamenti diversi, ci sono ordinamenti come quello americano che consentono la scelta tra la contribuzione individuale e quella del nucleo familiare con aliquote diverse. Noi invece, la Corte Costituzionale a metà degli anni 70 decise di non considerare più la famiglia come soggetto tributario, ma ci trasformò tutti in contribuenti individuali, e per colpa di questo abbiamo il fisco più ostile alla famiglia di tutto l'Occidente. Vogliamo rapidamente, Riccardo, rispondere a chi ti diceva sei un avvantaggiato e vuoi approfittarne? Ma allora, io ripeto, mi assumo la responsabilità della mia mancanza di aver aspettato, certo. o di aver comunque lasciato andare questa cosa, per proprio mi è proprio scappata, ma non è che vado a chiedere di non pagare, esatto. Né tantomeno l'importo e neanche la mora e gli interessi. E la mora e gli interessi. Ma è stato correttissimo ribadirlo. Ohimè, il tempo è finito. Io ringrazio Riccardo. Enrico da Padova ci diceva naturalmente gli autonomi non hanno diritto agli assegni familiari, altro grande problema, ma ne riparleremo un'altra volta. Io vi do appuntamento domani dalle 10 alle 12. Conti della Belva con me, Carlo Alberto Carnavale Maffè, Renato Cifarelli, Mario Seminerio, perché parleremo del DEF, cioè il documento economia e finanziaria che il Consiglio dei Ministri varerà questa sera, e di questo grande veicolone bancario che stanno lanciando per salvare ancora una volta le banche in difficoltà. Domani dalle 10 alle 12, continuate con Radio 24.